nel mondo, 240esima trasmissione dedicata agli emigrati. Il coro Grion di Monfalcone. Da uno dei più apprezzati cori della nostra regione, il coro Grion del Circolo Italcantieri di Monfalcone, diretto da Aldo Policardi, ascolterete, cari emigrati, alcuni canti di cui taluno forse non troppo noto per l'impegno che l'esecuzione richiede. È struggente questa invocazione che un fanciullo rivolge alla madre morta mentre egli era ancora piccolino. Sui versi di Ugo Piazza, Rodolfo Kubik ha ricamato la musica di Cum me mare. Una raccomandazione che il compositore goriziano Cesare Augusto Seghizzi rivolge a una bambina con questo canto «Non stava i bambine». Il mondo si sclompene, ma il scurre il mirlo incontra. Nella rapsodia di Villotte friulane di Giovanni Pian ritroverete un po' del mondo di ieri, espresso in motivi popolari come in questi Flores di Prat. Thank you. l'allegria è la mezzogi, e l'allegria è la mezzogi, e non dai pezzo le pezzo ciò di marina. Domani è fiesta, domani è fiesta, non si lavora, e non si lavora, si passa il lavoro, si passa il lavoro. Domani è fiesta, domani è fiesta, non si lavora, non si lavora, si passa il lavoro, si passa il lavoro. E concludiamo, cari amici emigrati, con il saporito dialogo tra una madre e la figlia, scritto e musicato da Giovanni Pian. Curiositat. Donne mari, mi salvavi con l'ignive amorosa, se l'iseria, se traseria, si saveria con quattà. Cattinute, curiosute, cattinute, curiosute, se domandi che tu fas, cattinute, curiosute, se domandi che tu fas. Cattinute, curiosute, se domandis che tu fas. Arrivare a Giaccarone, culto bon mi sante pas. Divignare l'animalie, di campagne, campagne, zanadrie. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ottavio Valerio.